L'immaginario alla porta. Settimanale di immaginario radiofonico, telefonico, ortofonico, cacofonico, orrorifico, magico, obliquo, riservato, e invadente, privato e pubblico, fantastico e fatiscente. Tutto quello che avreste voluto sapere sulla fantascienza, il fantasy, l'orrore, la magia, i tarocchi e non avete mai osato chiedere. A cura di un ambiguo autopia. Sulle azzurracee onde di Radio Popolare avete ascoltato L'immaginario alla porta, una trasmissione folle, idiota, demente, superficiale, nonché brillante di una ambigua utopia. Una ambigua utopia.